e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari. Oggi, come ogni giovedì, ci ritroviamo con Investire Informati, il nostro appuntamento dedicato alle parole del risparmio e agli strumenti di investimento. Investire Informati. I temi dell'attualità finanziaria, le dinamiche dei mercati, le notizie che movimentano le sedute di borsa, questi i temi su cui ci confrontiamo per cercare di orientare i risparmiatori. Grazie a Simone Spezzi. Allora, intanto, comunque, il presupposto di questa seconda parte di Cuore Denari agli ascoltatori lo avevamo già spiegato. Saluto il nostro ospite che ci accompagnerà in questo appuntamento di oggi, appunto, di Investire Informati. È tornato Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sarà una puntata un po' complicata, avremo molte interruzioni, giustamente daremo spazio ai colleghi della redazione per gli aggiornamenti su questo grave fatto di Milano. Peraltro mi viene anche, come dire, cinicamente da sorridere, perché tre settimane fa l'allarme bomba qui al Sole 24 Ore. Dottor Alfieri, Investire Informati è nato sotto questa stella, sotto la stella appunto degli allarmi. Speriamo che si interrompa qua però questo ciclo appunto non proprio fortunato. Detto questo, le modalità per interagire con noi, anche per commentare i temi finanziari e le vostre scelte di risparmio, è sempre la stessa. Potete chiamarci all'800 24 00 24. Oggi, in questa prima parte, vogliamo stimolarvi sul tema dei titoli di Stato. C'è già un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666 che chiede se sarà il caso la settimana prossima di acquistare un lotto di BTP Italia di nuova emissione. Il collocamento parte lunedì. Allora Mauri, io le dico che magari per oggi accantoniamo, se vuole poi Lorenzo Alfieri potrà fare un commento, ma faremo una puntata apposita su questa emissione che ha delle caratteristiche diverse rispetto alle tranche precedenti. La faremo mercoledì prossimo, all'emissione ancora aperta, a meno che naturalmente il Tesoro non decida di interromperla in via anticipata, perché appunto le sottoscrizioni saranno state ampiamente soddisfacenti per il Ministero dell'Economia, per cui intanto glielo anticipo. Eventualmente vediamo se Lorenzo Alfieri si sente di fare un commento su questo argomento. Il tema dei titoli di Stato però che vogliamo affrontare oggi è da questo punto di vista. Dottor Alfieri, noi oggi commenteremo anche l'andamento delle borse in questo primo trimestre del 2015, che è stato piuttosto positivo. Abbiamo già commentato la questione del rally del mercato azionario, in puntate precedenti abbiamo fatto un focus sull'effervescenza tecnologica americana e quant'altro. Il tema dei titoli di Stato perché è attuale? Perché si è aggiunta la Spagna. Negli ultimi giorni ben 4 paesi in Europa stanno collocando titoli di Stato su certe scadenze a tassi negativi. Ci dà un po' la sua chiave di lettura di questo aspetto molto interessante, non propriamente positivo per chi investe su questo mercato, ed è l'effetto del quantitative easing di Mario Draghi, che peraltro oggi celebra proprio il suo primo mesiversario, che termine orribile, però insomma è partito un mese fa. Le ho messo tanta carne al fuoco, sì, da dove vuole partire? No, direi sicuramente dall'evidenza del fatto che molti paesi europei con i loro titoli di Stato stanno conoscendo ovviamente tassi negativi. Sono i fenomeni che ci si aspettava potevano avvenire, legati proprio al fatto che in Europa, e direi sui mercati internazionali, in questo momento c'è un compratore continuamente presente sul mercato, cioè la BCE. La BCE è sempre presente, sempre disponibile ad acquistare titoli, e questo ovviamente non fa altro che far scivolare verso il basso i rendimenti a fronte di una situazione macroeconomica dove l'altro elemento molto importante da tenere presente è l'inflazione. Inflazione sempre molto bassa, quindi questi due fenomeni associati non fanno altro che creare le premesse per una serie di, soprattutto sulle scadenze più brevi, su tassi negativi che, tra l'altro, questo è un elemento da cogliere per l'investitore e anche per gli investitori che vedo chiamano o inviano messaggi, è una tendenza probabilmente che non cambierà nel breve termine. per cui mi rendo conto anche delle difficoltà di trovare soluzioni di investimento a fronte di un investimento che per anni è stato sempre, così, per così dire, ben amato dagli investitori italiani, il titolo di Stato, che purtroppo relega però le redditività a dei tassi mai visti prima. Certo. Allora, segnalo agli ascoltatori, per chi non avesse notato questa notizia, che la tendenza dei tassi negativi sui titoli di Stato c'è, consolidata in Germania ma anche in Finlandia e Olanda, e come dicevo prima è successo nei giorni scorsi anche in Spagna, che ha collocato titoli a breve termine. Il tesoro spagnolo ha collocato titoli a 6 mesi per circa 700 milioni di euro ad un tasso medio negativo dello 0,02%. Ha suscitato un po' di rumore questa notizia che è arrivata dalla Spagna, dottor Alfieri, perché insomma era un paese in grandissima difficoltà per la bolla immobiliare pesantissima che l'ha colpito. È stata più volte paragonata all'Italia questa situazione spagnola, e adesso invece anche questo fatto di aver collocato titoli a tasso negativo viene addirittura considerata come una buona notizia, se non altro per le condizioni economico-finanziarie della Spagna. Sì, mi ricollego a quello che dicevo prima, è un fenomeno derivante proprio dal fatto che ci sono investitori che comunque sono obbligati ad investire su titoli di Stato, pensiamo ad esempio alle compagnie assicurative, ai fondi pensione, e sono dall'altra parte necessariamente attratti o devono cercare comunque investimenti più redditizi possibili. Ma dall'altra parte, come dicevamo, non si sposa rendimenti alti e basso rating. In questo caso, ovviamente, dovendo investire su un alto rating, devono andare sui titoli di Stato, ovviamente in questo caso anche della Spagna, e abbassando conseguenzialmente i tassi chiesti dal mercato. Allora, se questi argomenti vi attirano, chiamateci all'800 24 00 24, parleremo anche di borsa sempre più su e di tanti altri argomenti subito dopo il giornale radio. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari dopo la lunga pausa con il giornale radio. Siamo sempre all'interno della nostra rubrica dedicata ai mercati finanziari e alle parole del risparmio. Investire informati. Con noi oggi Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Siamo partiti con delle considerazioni sull'andamento dei tassi di interesse che in questo momento il mercato chiede ai titoli di Stato, soprattutto sulle scadenze brevi. Ci sono 4 paesi nell'Eurozona sotto i riflettori, sono la Germania, l'Olanda, la Finlandia e da 2 giorni anche la Spagna, ma naturalmente ancora sui titoli di Stato italiani, dottor Alfieri, non c'è un tasso negativo, ce l'abbiamo se andiamo a considerare commissioni di intermediazione per chi sottoscrive in asta appunto i bond del Ministero dell'Economia, e naturalmente se si considera anche un po' il peso che ha l'inflazione. Detto questo, andrei subito a sentire le domande degli ascoltatori all'800 24 00 24, poi faremo naturalmente un focus anche sull'andamento di borsa. Si è da poco concluso il primo trimestre del 2015, ci sono delle performance molto interessanti per molti listini internazionali, e partirei con il commento che Antonio rilascia su Twitter, dottor Alfieri, perché chiede: capisco i tassi negativi sui titoli a breve termine, e abbiamo dato indicazione della scadenza per esempio spagnola che ha registrato il tasso sotto zero di 2 giorni fa, il titolo di Stato era 6 mesi, ma come si spiega il tasso negativo sui titoli decennali svizzeri? Beh, no, fa sempre parte ovviamente di... Fa il paio con gli altri. Il paio con gli altri. La Svizzera, non dimentichiamoci, rimane sempre comunque un paradiso per gli investitori. Ovviamente sto parlando degli investitori, in questo caso istituzionali, che cercano ovviamente zone e aree dove il rischio sia il più basso possibile. Ne sono rimasti pochissimi, tra questi ovviamente anche la Svizzera, e per cui sono tra virgolette costretti ad investire anche se i tassi sono in questo caso negativi. Le aggiungo la domanda delle domande che molti ascoltatori stanno sollecitando anche al 349 238 66 66. C'è ancora qualcuno che si chiede dove si annida la prossima bolla. Voi siete per l'opzione bolla sul mercato obbligazionario, dottor Alfieri? No, non riteniamo che ci sia una bolla, nel senso che i livelli dei prezzi attuali possano crollare in poco tempo. però il problema essenziale è sicuramente in questo momento per l'investitore che ha delle disponibilità liquide o magari titoli in scadenza, sicuramente come trovare, dove trovare nel mondo obbligazionario una redditività interessante. Il rischio secondo noi si annida nel fatto che magari si sottovalutano certi rischi, magari andando a acquistare obbligazioni di società con reti molto basse, perché queste sono quelle poche soluzioni di investimento che hanno dei rendimenti, certo, magari positivi o in questo caso poco positivi ma comunque positivi. Ecco, in questa fase è molto dedicata per questo, certo, motivo. Apriamo lo sportello di Cuore Denari. Con piacere, diamo la linea a Paolo che ci chiama da Como. 800 24 00 24, avete ancora tempo per superare la, sì, nostra barriera rosa. E tra poco partiamo anche col domandone, certo, attenzione. Benvenuto Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione, bla bla bla. Bla bla bla bla, va bene. Allora va ci bene. Ci serve questa pacca sulla spalla stamattina perché è una mattinata un po' complessa. Paolo, ci dica tutto. Ecco, senta, il mio problema è che io ho un portafoglio di obbligazioni BTP italiani a lunga scadenza, è un rendimento, diciamo così, intorno dal 4,5 fino al 5,5. Non è tanto un problema, però insomma, dai Paolo. Il mio problema è un po' come questo. I batteri positivi e quelli negativi, questo è batteri buono praticamente, un buon problema da gestire probiotico. In questo momento. No, ma adesso vi spiego subito. Siccome sono uno, diciamo così, che gli piace fare investimenti un po', diciamo così, al limite, io ho delle plusvalenze intorno al 40 o anche il 50% su questi BTP. Quindi ho diciamo un buon margine, diciamo, di guadagno. Ma il mio problema è disinvestire o mantenere? Allora, pensavo che ne volesse dare un po' a noi. Paolo, guardi, quando facciamo trasmissioni su questo argomento ad Investire Informati da qualche settimana a questa parte, questa domanda è proprio ricorrente, direi, perché c'è chi certamente ha avuto o un buon consulente finanziario che gli ha suggerito di farlo al momento giusto, che ha avuto anche quel pelo sullo stomaco, ecco, infatti Alfieri è più propenso per questa seconda opzione di comprare quando i prezzi dei titoli di Stato erano letteralmente crollati, quando il famoso spread era a 570 punti, un autunno che non vorremmo certamente rivedere. Detto questo, chi in quel momento ha fatto questo investimento con un po' di atteggiamento anche speculativo oggi si trova con queste plusvalenze che possono arrivare anche al 30-40% come nel caso di Paolo. Allora lì diciamo che il buon senso suggerirebbe anche un po' di accontentarsi e di portare a casa, no? E poi il tema è però dove li rimetto adesso. Qua ci vorrebbe una bella analisi della situazione del nostro ascoltatore. Ma ripeto, appunto, non conosco le linee guida dell'investitore, in questo caso dell'ascoltatore, di come si è posto di fronte ai mercati, ma in linea di massima in una situazione di questo tipo io direi che, come ho detto prima, le alternative di investimento non ci sono, e se ci sono sono estremamente rischiose nel mondo obbligazionario. Bisogna rivolgersi ad altre aree di investimento come l'azionario, che presentano però altri rischi. Quindi, se non è necessariamente costretto l'investitore a dover disinvestire perché ha bisogno di fare acquisti di altro genere, in questo momento avere un portafoglio che renda il 4-5% ovviamente a fronte di un investimento dove ragionevolmente i rischi sono il rischio di Stato italiano, quindi possiamo a ragion veduta dire molto limitati, francamente non farei altre scelte di investimento, aspettando magari che... Quindi consoliderebbe questo... Manterrei ovviamente una posizione di questo genere, perché francamente, ripeto, avere rendimenti del 4-5% in un proprio portafoglio è un rendimento, ascoltiamo bene, difficile da ottenere anche andando verso investimenti più rischiosi. Certo. Riprendiamo il nostro slalom fra gli aggiornamenti sui fatti del Tribunale di Milano con Lorenzo Alfieri, JP Morgan. Allora abbiamo toccato il tema dei rendimenti negativi sui titoli di Stato, il grande tema del momento, che si confronta invece con borse record. Abbiamo stilato proprio ieri insieme a Marco Lombardo un bilancio sull'andamento degli listini internazionali, almeno i più importanti dall'inizio dell'anno. Prima però di dirvi come sono andate le cose, per chi avesse perso questa notizia negli ultimi giorni dai giornali finanziari, direi che ce la facciamo però a fare il nostro domandone di oggi. Volentieri, dai. Prima l'indicazione geografica dei paesi in cui c'è un rendimento negativo dei titoli di Stato sulle scadenze più brevi, naturalmente sono quattro i principali dell'Eurozona. Se avete preso appunti, allora naturalmente tirateli fuori, siamo pronti a raccogliere le vostre risposte. Quindi quali sono i quattro paesi dell'Eurozona che nelle ultime aste più recenti hanno decretato rendimento negativo per i propri titoli di Stato? L'ultimo è stato proprio l'ultima asta di due giorni fa, titoli a sei mesi per un paese anche molto vicino all'Italia. 800 24 00 24 per le vostre risposte, naturalmente, e chiaramente apriremo la libreria di Cuore Denari. Allora, c'è chi chiede anche, dottor Alfieri, lo stanno facendo in molti, in realtà questo è stato anche l'oggetto della sua analisi, della sua prima parte. Qualcuno dice, ma insomma, allora perché un piccolo risparmiatore dovrebbe comprarsi un'obbligazione a tasso negativo a sei mesi? Effettivamente non c'è nessuna ragione per farlo, però... Assolutamente, già lo abbiamo detto in precedenti incontri, in questa fase... il mercato obbligazionario non propone, per quanto riguarda titoli di Stato di alcuni paesi europei, soluzioni di investimento interessanti, appunto abbiamo tassi negativi e quindi è necessariamente invitato l'investitore a guardare verso altre soluzioni di investimento. Quindi non la interrompo perché prego. Ho bruciato la domanda di Mauro dalla provincia di Varese. Eccolo lì. Eccolo là. Così allora. Così vi parlate. La faccio rifare, Mauro, così azzeriamo un po' la risposta e magari le voglio argomentarle in maniera diversa. Mauro, benvenuto. Sì, grazie, buongiorno. Sì, effettivamente sono stato bruciato. Fra le altre cose, ho sentito purtroppo le breaking news di quello che sta succedendo a Milano. Io sono un ex dipendente e Utilia Agile, e quindi mi sento ancora più colpito di quello che sta succedendo lì al Tribunale di Milano. Comunque la mia domanda, che è stata un po' bruciata, è banalmente quella che è stata già accennata, cioè una persona come me, che non è un investitore, non dico professionale, ma insomma non è un particolare investitore, quali sono le ragioni per cui, detto un po' alla buona, dovrei investire in bot anziché tenere quei quattro soldi che magari ho sotto il materasso, insomma. Certo. Grazie Mauro. Appunto, correttamente l'ascoltatore espone un problema, è un po' un problema di tutti gli investitori italiani che sono stati per decenni abituati a investire in titoli di Stato con interessanti rendimenti. L'investitore italiano oggi come oggi si trova davanti a un problema, cioè diversificare. Diversificare significa guardare non solo ai titoli di Stato, ma guardare a titoli di altri paesi, di altre società per quanto riguarda l'obbligazionario, e guardare anche all'azionario. Diventa quindi elemento fondamentale conoscere i mercati, e per questo motivo ritengo che questi mercati finanziari oggi come oggi siano molto complessi, e il fai da te che per anni è stato sufficiente per ottenere dei ritorni interessanti non è assolutamente la soluzione ideale. Allora, l'andamento dei mercati azionari dall'inizio dell'anno. Abbiamo preparato questo bilancio che è relativo al periodo 31 dicembre 2014 fine marzo appunto 2015. Che cosa troviamo in questa lista che abbiamo fatto dei principali indici internazionali che guadagnano oltre il 20%? Questi paesi: Portogallo, Milano e Francoforte, e la Russia. Situazioni molto diverse tra di loro, dottor Alfieri. Sì, rispecchiano ovviamente una situazione che si era andata già delineando nel 2014. Apparteniamo in parte all'area europea piena, che è stata ovviamente in questa fase, prima fase dell'anno, beneficiaria della manovra, della BCE, ma anche e soprattutto da una serie di notizie macroeconomiche che riguardano l'Europa e che sono sicuramente molto interessanti rispetto a quelle che sono arrivate nel 2014 per l'Europa stessa. La Russia ovviamente è un recupero dopo una fase disastrosa del 2014, vi ricordo non solo crollo della borsa ma anche e soprattutto della valuta locale, del rublo, ovviamente in questa è una fase di recupero, ma sul recupero dell'economia russa noi abbiamo nel breve termine ancora qualche perplessità. Per cui sicuramente i primi tre mercati, Portogallo, Milano e Francoforte, invece identificano chiaramente un passo di marcia radicalmente diversa rispetto al 2014 dell'economia europea. Tra l'altro Francoforte sui suoi record di sempre, Milano ancora no, però si è riportata ai livelli pre-crisi, pre-Lehman Brothers, che è una buona notizia. Sai qual è l'unica borsa in negativo dall'inizio dell'anno, Nicoletta? Una a caso. La povera Grecia. E siamo sempre lì. Andremo tutti in vacanza là, naturalmente, per risollevare un po' le sorti dell'economia di Tsipras. Tra l'altro, Varoufakis. Ecco non ci dispiacerebbe incontrare. Però ha una bella moglie. No, ma anche lui a me non dispiace affatto, no. L'ho sempre dichiarato molto onestamente, però, apertamente, in tutti i sensi, sia dal punto di vista professionale che naturalmente estetico. Dottor Alfieri, peraltro, proprio oggi il governo Tsipras ha rimborsato, come non era tanto scontato che facesse, questa nuova tranche del prestito che gli era stato erogato dal Fondo Monetario Internazionale, 438 milioni di dollari, una buona notizia che rassicura un po' la Grecia, secondo lei è un focolaio ancora acceso di crisi? Sicuramente, per i mercati, quantomeno per il suo impatto sui mercati. Allora, diciamo che in questo momento, come abbiamo visto, i mercati non prestano molta attenzione alla Grecia. La crescita dei mercati europei, dei listini europei, è importante, trascinata ovviamente dai numeri che escono sugli altri paesi. E per questo motivo rimaniamo abbastanza confidenti nel fatto che, anche se la Grecia dovesse avere negli accordi tendenzialmente, magari che non vengono raggiunti nel breve termine, qualche elemento di, diciamo, conflittualità, non crediamo che possano influenzare più di tanto, almeno nel breve termine, i listini azionari europei. È chiaro che se invece questa frattura dovesse essere maggiore, potremmo vedere forse un impatto maggiore anche sugli listini europei. Abbiamo le risposte al nostro domandone. Cominciamo con Ugo. Ugo, buongiorno. Quali sono i quattro paesi dell'Eurozona dove c'è un rendimento negativo sui titoli di Stato? Ugo, l'abbiamo perso. Andiamo a Silvia da Pordenone. Buongiorno. Sì. Allora, è Germania, Olanda, Finlandia e Spagna. Allora, Germania, Spagna, Finlandia e Olanda, abbiamo detto tutto correttamente, dottor Alfieri. In realtà anche Ugo aveva detto anche la Svizzera, che non era una risposta sbagliata, perché sul titolo appunto decennale c'è il rendimento. Ma mi è caduto sul più bello. Anche lì. Ma guarda, sai che ti dico, che io regalo libri ad entrambi. Dai, io così stamattina rispolveriamo un po' l'umore delle persone che abbiamo dovuto accompagnare anche con notizie non proprio belle. Quindi libro sia per Silvia che per Ugo. Anche per lei, dottor Alfieri, se ne vuole un po'. Sì, abbiamo un libro di cuore. Grazie mille. Grazie. Prima di salutarci, io vorrei invitare i nostri ascoltatori ad andare sulla pagina di Cuore Denari, perché domani si celebra la prima giornata nazionale della prevenzione otorinolaringoiatrica. E allora ci sono delle strutture, sono 180 su tutto il territorio nazionale, in cui domani si potranno effettuare degli screening gratuiti, e sarà anche il tema della puntata di domani. Deborah. Grazie Lorenzo Alfieri per essere stato con noi. Investire Informati torna giovedì prossimo. Cuore Denari invece torna domani con Nicoletta, con Marco Lombardi, Zotta Scenna e tutta la redazione. Buona giornata. Cuore e Denari.